L'amore pesa dentro una casa, come l'attesa per una sposa. L'amore cambia quando si spoglia e mentre si guarda allo specchio non trova una voglia. Ma io ti stupirò, io ti stupirò. A me non devi dire mai quello che provo, non lo sai. A me non serve tempo, cammino contro vento e non mi importa se ci sei. A me non devi dire mai, amore, io ti invento e poi ti tengo dentro. L'amore arriva quando finisce improvvisamente. Ti riconosce, l'amore inganna, ti compra una rosa e mentre ti meravigli ti ha già rubato ogni cosa. Ma io ti stupirò, stupirò. A me non devi dire mai quello che provo, non lo sai. A me non serve tempo, cammino contro vento e non mi importa se ci sei. A me non devi dire mai, amore, io ti invento e poi ti tengo dentro. A me non devi dire mai quello che provo, non lo sai. A me non serve tempo, cammino contro vento e non mi importa se ci sei. A me non devi dire mai, amore, io ti invento e poi ti tengo dentro. L'amore pesa, l'amore cambia, l'amore arriva, l'amore inganna.